Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, rieccoci con una nuova puntata di Personal Best e un nuovo ospite. Oggi è con noi l'eptatleta Sveva Gerevini, benvenuta. Grazie mille. Eptatleta non è una solilingua, ma si dice anche multiplista, no Sveva? Esattamente. Come stai? Ma sì, abbastanza bene. Io rientro dalla settimana di ferie. Forse si stava meglio al mare, però è giunta l'ora di riprendersi. Ma era proprio vacanza o ti sei allenata? No, questa è stata la mia settimana proprio di relax totale in tutto l'anno. Ah, bellissimo allora, dai, sì, te lo sei meritato. Sì. Vabbè, esatto, dopo gli italiani ho detto mi prendo giusto una settimana di pausa e poi si riprende a pieno regime. E infatti è vacanza meritata perché sei fresco del quarto titolo italiano consecutivo, no? Conquistato appunto gli assoluti di Padova a fine agosto. Com'è andata? È andata bene. Sinceramente io speravo ancora qualcosa di meglio dal punto di vista della prestazione. Però nel complesso ho fatto dei buoni risultati, sono riuscita a fare il personale nei 200 metri, nel salto in lungo, a fare una buona prestazione nel getto del peso. Un pochino la condizione climatica è stata sfavorevole, soprattutto sui 100 ostacoli, dove avevamo 2,5 metri quasi di vento a sfavore. Vabbè, così è andata, comunque ho fatto la mia seconda prestazione di sempre e quindi posso ritenermi. Beh, complimenti allora. Ma diciamo ai nostri radioascoltatori quali sono le specialità, no? Che fai? Allora, l'heptathlon consiste in 7 discipline che si dividono su 2 giornate. La prima giornata si corrono i 100 ostacoli, si fa il salto in alto, il getto del peso e a finire i 200 metri. Nella seconda giornata si inizia col salto in lungo, lancio del giavellotto e infine il 800 metri. Per gradire, insomma, alla fine, gli 800 metri. Sì, esatto, sono una mazzata finale, bro. Ma qual è quella che preferisci? Qual è dove sei magari più portata o proprio quella che preferisci? Allora, quella che preferisco su tutte probabilmente ad oggi sono i 200 metri, sia per il fatto che sono abbastanza portata effettivamente, e più che altro perché segna un po' lo stacco tra la prima e la seconda giornata. Infatti viene alla fine delle prime tre fatiche, va in chiusura di una fatica importante della prima giornata, quindi a livello tecnico non hanno grandi richieste e mi permettono di esprimermi al massimo. Mi piace proprio correrli perché mi sento libera e proprio sfogo tutte le tensioni della giornata. E ecco Sveva, tornando a Padova, com'è stato tornare a correre? Perché c'è stato un grande sforzo, no, da parte anche della federazione per prima, per riprendere a gareggiare. Se non sbaglio, quello di Padova, insomma gli assoluti di Padova sono stati il primo evento sportivo di un certo spessore a riprendere con il pubblico. Sì, allora è stato stupendo, soprattutto rivedere tutti, anche gli altri specialisti, non solo quelli che praticano prove multi, quindi saltatori, velocisti, che alla fine ci conosciamo più o meno tutti, e stando lontani ormai da più di 6 mesi dalle scene, dagli grandi eventi, non ci si vedeva. Quindi è stato un momento di rincontro, ma anche di confronto, per valutare gli altri come sono riusciti a lavorare. Ecco. E tu come sei riuscito a tenere alta la motivazione anche in assenza di gare? Quello era un po' un problema di tutti, insomma. Sì, allora sicuramente cercando di allenarmi tutti i giorni e scandendo dalla giornata dei tempi ben precisi in cui allenarmi, in cui svolgere attività alternative, quindi quello, la costanza sull'allenamento mi ha permesso di rimanere sempre concentrata sull'obiettivo, che è quello di migliorarmi. E poi all'inizio c'era ancora un po' il sogno dei campionati europei a Parigi, che poi è sfumato. Quella è stata una bella batosta, ad essere sinceri, perché ci avevo lavorato molto l'anno scorso quando ho saputo di aver raggiunto il minimo di partecipazione, quindi di essermi qualificata, ero molto carica e stavo lavorando molto bene. Però cancellati quelli, abbiamo cercato di puntare a migliorarsi e prendere quest'anno un po' di passaggio come occasione per lavorare su fragilità che ci potevano essere. Quindi durante il lockdown cos'è che facevi? Allora, io mi sono allenata nel cortile di casa, mi ero portata a casa un po' di ostacoli, un po' di pesi, quindi facevo sollevamento pesi, ho fatto un po' di yoga, poi lavoravo appunto con gli ostacoli, un po' di discorsi tecnici, poi facevo tutti quei piccoli lavori che generalmente si trascurano nell'ammontare di cose che ci sono da fare, soprattutto nella nostra specialità, in cui i discorsi tecnici ce ne sono ben 7 da seguire. Infatti. Quindi quelle cose che si trascuravano abbiamo cercato di porre accento su quelle. Vabbè, quindi dai, allora c'è qualche lato positivo. Sì, io cerco. Almeno l'abbiamo trovato, certo. Esatto. Ma invece qual è che è la specialità che ti piace meno? Che mi piace meno? Se allora, c'è? Beh, sicuramente l'800 metri crea grande sofferenza. Alla fine. Esatto, un po' perché è l'ultima e un po' perché è davvero lì è dove devi dare tutto. Sei in qualsiasi caso, che tu li corra forte, che li corra piano, arriverai morto alla fine. Quindi quelli sono sempre abbastanza provanti. E poi, più o meno sullo stesso piano, ci sono i 100 ostacoli. Non che non mi piacciono, perché come gara mi piace molto, però il rischio che comportano è molto elevato. È la prima gara, la prima disciplina che si va a affrontare, quindi sbagliare quella è come buttare via tutto l'heptathlon, e il livello di difficoltà è molto elevato. Ci sono 10 barriere, basta prenderne una e si può fare un capitombolo. Non, è, non lo dico a caso, ma perché mi è successo più di una volta, quindi davvero. Sì, Sveva, poi come ci raccontavi prima, sono 7 discipline diverse, ogni gara, poi a ogni specialità c'è un punteggio diverso che man mano compone il risultato finale, no? Gara dopo gara. Esatto, sì, ad ogni disciplina, a ogni prestazione che viene fatta in ogni disciplina viene assegnato un punteggio in base appunto a quanto si salta, quanto si lancia, quanto si corre veloce, e la somma dei punteggi dà a noi il risultato finale, che è appunto il punteggio dell'heptathlon. Il bello è un po' questo, no? Anche il fatto che possa cambiare tutto da una disciplina all'altra. Esatto, c'è una si è visto per esempio i campionati italiani allievi che ci sono stati questo weekend, tutti quelli che erano, come si dice, in lissa per il podio, soprattutto mi pare nella graduatoria maschile, hanno avuto chi problemi fisici, chi magari ha sbagliato la gara, e basta sbagliare una gara per trovarsi a fine classifica. Quindi davvero il rischio è elevatissimo, la richiesta di concentrazione in 2 giornate fa sì che peggiori il tutto. Ma hai iniziato con la velocità, con che cosa hai iniziato la tecnica? Allora, io ho iniziato nel mio paesino di Casalbuttano, in cui il nostro, ho iniziato in prima elementare, quindi prestissimo. Ah, prestissimo. Il nostro allenatore sì, ci faceva fare un po' tutto, è una formazione di base a livello motorio, quindi ho sempre fatto un po' tutto. Poi nelle scuole medie e superiori mi ero specializzata sui lanci, soprattutto giavellotto peso, mi sono sempre piaciuti molto. Poi avevo qualche problema fisico legato all'età, un po' male al ginocchio, quindi mi ero focalizzata appunto sui lanci. E poi all'età giovanissima e poi in quinta superiore ho detto perché non riprovarci con le prove multiple, anche perché effettivamente il fisico da lanciatrice non ce l'ho proprio e mi sono così un po' per gioco anche ributtata nelle prove multiple, e ho scoperto che effettivamente era la cosa che mi veniva meglio, in cui potevo dire effettivamente la mia sia a livello nazionale, che non so, magari in futuro anche internazionale. Speriamo. Tanto magari uno non sa cosa scegliere delle 7 specialità, alla fine diceva le prendo tutte, insomma. Esatto. Che forse è la pazzia più grande che io possa aver mai fatto. Ogni tanto me ne pento tra un allenamento e l'altro, chi me l'ha fatto fare, però poi le soddisfazioni che arrivano sono tali che mi incitano ad andare avanti. Ecco, ma come si allenano 7 specialità diverse? Così diverse, tra l'altro. Allora, si fanno tanti accenti di forza, quindi sollevamento pesi, corsa, quindi ripetute, resistenza, ma durante la settimana si cercano di toccare tutte le discipline anche dal punto di vista tecnico. Io mi alleno tutti i giorni, dalle 3 alle 6 ore, quindi 2 o 3 giorni a settimana faccio anche 2 allenamenti. Quando il lavoro me lo permette, certo. Infatti perché tu lavori, no? Esatto, io lavoro anche. e niente, cerco di dedicare tutto il mio tempo libero a quello. Infatti, oltre ad atletica, non faccio molta altro. Ah, ecco, ti stavo per chiedere, infatti, come concili il tutto con il lavoro. Insomma, alla fine devi dedicare tutto il tempo libero. Esatto, il mio tempo libero è dedicato ad allenarmi o poco altro. Magari qualche weekend, quando non ci sono gare, almeno un tre quarti di giornata libera ce l'ho. Però insomma, è una vita di sacrifici, insomma. Sì, penso di sì, ma a me non pesano, quindi per me non è sacrifici belli. Un sacrificio. Sì. Esatto, cioè per me è solo un bello quello che faccio, come se uno piace fare il decoupage e passa i pomeriggi a fare il decoupage, a me piace correre e passa i pomeriggi a correre. È giusto, infatti. No, parlavi di allenamento invece, come delle sette discipline diverse, insomma, si allena la più debole e si va in parallelo su tutte e sette? Dipende dagli obiettivi che ha l'allenatore. C'è chi cerca di sfruttare al meglio il punto forte dell'atleta e chi cerca di smussare le difficoltà. Sicuramente bilanciare un po' il tutto può aiutare, anche perché i punteggi non vengono dati dalla singola disciplina, ma dalla somma di tutte e sette. Nel totale. E quali sono i prossimi obiettivi, Sveva? Allora, prossimi obiettivi, adesso questa stagione ormai per me è giunta al termine, ma magari farò ancora qualche garetta, però nulla di importante. Per l'anno prossimo sicuramente cercare di arrivare prima ai 6.000 punti, okay. E poi, perché no, provare a fare il record italiano, che sarebbero 6.185 punti. Ce la possiamo fare. Adesso io... ma sì, dai, che ce la fai. Mi alleno, ci improvo. Sicuramente non è facile, è più facile dirlo che farlo. Però è un po' il mio sogno, il mio obiettivo, e quindi continuo a lavorare in funzione di quello. Secondo te, su quali puoi cercare di prendere più punti? Secondo me su tutte. Secondo me ci sono ancora grandi margini di allenamento, anche per la vita che sto conducendo ad oggi, quindi lavorando e allenandomi. Se riuscissi a gestirla un po' diversamente, magari con un po' di tranquillità in più, forse qualche miglioramento su tutte le varie discipline potrebbe venire. Allora, Sveva, in chiusura, noi, tu sei un po' la sintesi, no, di quello che raccontiamo spesso qui a Personal Best ogni domenica, anche grazie ai consigli del coach Fabio Vedana. Diamo i consigli agli ascoltatori su come preparare magari una gara di 10 km, una mezza maratona, una maratona, e la base di tutti questi consigli è quella sempre di proporre stimoli diversi, quindi con allenamenti e ritmi diversi. L'heptathlon è un po' la sintesi di tutto questo, no? Perché gli stimoli diversi non mancano, sono sette specialità, come abbiamo raccontato. Assolutamente, io ho iniziato proprio cercando stimoli diversi, stimoli nuovi, e quindi questa specialità mi ha dato la possibilità di esprimermi sul fronte sia dei lanci, della corsa, della velocità, dei salti, quindi mi sono messa in difficoltà tante volte, però questo poi ha portato miglioramenti anche in singole discipline, come possono essere i lanci. Infatti io ho iniziato a lanciare discretamente lungo nel peso quando ho iniziato a fare prove multiple, quindi probabilmente anche il variare nelle varie discipline può portare miglioramenti sul singolo. Penso che è una delle filosofie principali del mio allenatore, che è un allenatore principalmente di lanci, però da sempre i suoi atleti, anche il martellista gli fa anche lanciare il giavellotto, quindi anche questa capacità di variare da sensibilità differenti può portare crescita anche nella singola disciplina che si vuole andare ad affrontare. Quindi non vale solo per la corsa su strada che noi raccontiamo sempre, insomma, vale per tutte le discipline dell'atleta. Assolutamente, vale per tutto. E allora, purtroppo il tempo stringe, siamo in chiusura, grazie di tutto Sveva e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille. In bocca al lupo. E quindi veramente tutto, noi per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona domenica. Buona domenica. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.